Io sono quel che sono e punto a dimostrarlo. C'è chi cerca di fermarmi e punta per arrestarlo. Arresto solo queste giudizio giusto fanno negativo, positivo, pregiudizio e distanto. Sono letame in quanto servo al tuo terreno. Contengo il contenuto, elimino il voto dal pieno. Sostituisco verità credendo di essere un alieno. Accelero il ritmo perché ho dimenticato il freno. Bastarda dentro, facciamo bastardi a tempo. Ti creo bastardate mentre aspetto l'argomento. Solidificami, sono il ghiaccio per il calore. Sono il rosso del tuo cuore che ora cambia colore. Vivo del tuo rancore, tu chiamami fiducia. Rappresento il ghiaccio bollente, occhio che brucia. Sono reale, ma viaggio nel mio mondo astratto. Potrei essere il sapore se fosse possibile al tatto. Giudizi e pregiudizi, fino alla nausea. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché in fondo non mi importa. Giudizi e pregiudizi, fino alla nausea. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché in fondo non mi importa. Considerami lacrima, però resta l'asciutto. Ma confronto sono il niente, essendo tutto. Meglio essere il più bello per disciogliere il più brutto. Oppure fare la felicità un qualcosa di distrutto. Spero di essere forte, convinta di essere debole. Come il mare raffigurato da chi? Da un demone. Mi accontento di come sono, osservando i grandi giudizi negativi. Mi daranno forza per andare avanti. Sogno di essere la soluzione al tuo problema. Nel mentre essere simbolica come un emblema. Stare nel centro come il succo di una tua idea. Sfilare mitologia, esempio come una dea. Minuto di verità, non sono una che finge. Un carro di pop, ma con lei che lo spinge. Mi giudichi tirata, tiro giusto come il vento. Non me la tiro perché semplicemente non ha senso. Giudizi e pregiudizi, fila la causa. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché in fondo non mi importa. Giudizi e pregiudizi, fila la causa. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché in fondo non mi importa. Avrei la forza di gridare in modo da rompermi nuvola. Sarei un raggio di sole che per scuovere una nuvola. Pensa a quello che sono, ma è pure realtà. Una povera cretina che vive di musicalità. E a seconda del mio stato d'animo, penetro nel mio battito fino allo stato più arido. Credimi che sto essere più feroce di una tigre. Fa piangere il tuo ego nei momenti in cui sorride. Sono molto lontana quando mi vorrei vicino. Sono ostacolante per il tuo obiettivo. Andarmene nel momento del tuo arrivo. Essere troppo buona ma in un gesto cattivo. Giudicami male, cosa ci posso fare? Non è questa la causa che mi fa incazzare. Arriva nel profondo dove non si può arrivare. Come il buio tenebroso dove non si può guardare. Giudizi e pregiudizi, fino alla nausea. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché in fondo non mi importa. Giudizi e pregiudizi, fino alla nausea. Consideri l'aspetto, non consideri la causa. Pensa a quello che conta quando bussano alla porta. Non rispondo, perché il mondo non mi importa.